about it, skinny cat? How about it, skinny cat? Hello. No copy, skinny cat. I'm back quiet. Alzo il volume un attimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, stato netto. Sì, modulazione normale, 3 bip. Modulazione normale? Aspetta un attimo. Guarda un po', sicuro sei? No, normale dico, non è distorta, non è... non è cupa, non è rimbombante, capito? Ah, mi stavo già spaventando. Va bene, già sembra che stia andando bene adesso. No, ma se tu alludevi al volume, non è fortissima, non è quella modulazione che certe volte ti dico Antonio abbassa, no, è piacevole, ascoltabile e tutto qui. Avevo acceso il baracchino per vedere se c'era ancora l'antenna dopo il vento, la pioggia, tutto bene. Stazionari assenti. Ah, già c'era ancora l'antenna, già lo sai che non scende. Però io, ma l'antenna stava ancora sopra. Sì, dove la prima di piazza, già lo sai. Prima di piazzare la tua, mi ha piazzato Mantova, sono ancora sopra il tetto. Non è mai caduta una. A te? A me no, cioè a me mi è caduta due volte, agli altri no, la verità, perché se tu guardi lì dove abitava Fabio Cossiga c'è ancora l'antenna, immagina la piazzata prima di te, della tua. Sì, ascolta, dove ti era caduta? Lato strada o lato interno? No, mi è caduta quando l'ho installata, abbiamo sollevata io e Gianni di Usilo, l'abbiamo installata di 3 metri. Poi gli ho detto, vabbè, tanto ho detto, domani la mettiamo meglio. Arriva questa passata di vento a più di 120 km e mi sono trovato prima l'antenna lì di Piaggiano con Fantomas, nuova, pensato la settimana prima, con il Bada Enduri. Poi ne è scesa la mia. Fortunatamente sono stato fortunato che i radiali erano interi. Aspetta che mi chiama mamma. Eia. È tanto, ho fatto tutto, sì. Ti volevo chiedere Antonio, tu giorni fa avevi chiamato, avevo trovato una chiamata persa, poi mi sono dimenticato di richiamare, cioè ho detto chiamo dopo e poi non ho chiamato, me le sono dimenticato. Mi sono incasinati quei due UV5 Ripple Plus, ho schiacciato un pulsantino, cazzo. Mi sono sparite il canale della memoria, però per poterlo ripristinare adesso non mi ricordo, quella sera entrando nel menu, il terzo pulsante che ho schiacciato, cos'era, andando avanti dopo il Vox, c'è Vox, poi c'è l'altro, poi c'è l'altro, in pratica mi risponde il coso in cinese, non mi ricordo qual è adesso, hai capito, per ripristinarlo normale nelle memorie, in pratica. Ho eliminato, come se avessi eliminato le memorie provvisorie, e me l'avevo resettato. Sì, devi fare un reset al tutto, un reset di fabbrica sarebbe, si cancella le memorie anche però, no, non ho fatto il reset al, assolutamente, era un'altra cosa, ma non mi quelli cosa di diavolo era per ripristinare le memorie, capito? Adesso siccome è scritto in inglese è un casino, cazzo, quello bisogna che ne studi un po' di inglese, a meno l'avrei fatto su, se al limite l'avrei fatto io, a meno che non si risenti tutto, va a fanculo, mettiamo le sette in fabbrica e si impostano, non è basta avere 8 canali LPD e 8 PMR, boh, non mi serve nient'altro in quei due, anche perché adesso non questa domenica ma l'altra domenica devo fare la scorta alla Madonna di Lateroce, capito, col PMR, come ho fatto 3 anni fa per il Covid quando vivo a Bacchisio. Ti stavo vedendo, sì, ci sono due reset, uno è quello all, praticamente azzera la memoria, azzera le impostazioni, tu vuoi azzerare solo le impostazioni, ma lì è da menu, cioè tu riesci a accedere al menu? Sì, nel menu accedo, grazie a Dio, sì. Prima te lo faccio vedere, se te lo faccio vedere il discorso diverso, aspetta un attimo il telefono, 2 minuti. Sono rientrato. Marco. Claudio, sei tu? Chi è avanti? Canale 10 Hola, attenzione 10, chiamate? Ciao Claudio, ben sentito, mi adesso acceso, ho detto, chiamato qualche minuto fa, non c'è nessuno, adesso ti faccio l'ultima chiamata, come dicono, ci sei uscito tu, e beh, là, come andiamo? E tu devi stare molto più attento di quelli che stanno in città, perché io dico, il fumo può arrivare in qualunque punto, però tu, visto che sei un pochettino con l'antenna, non hai palazzi alti vicino, per cui il punto dove scarica più facilmente sei tu, stai molto attento, staccati le antenne, il cavo dell'antenna, buttano più lontano possibile dalle radio e togli anche l'alimentazione, così non hai nessun problema. Stai attento che sono cose delicate, se riesci a togliere il coperchio, fagli prendere bene aria, metti in una parte non vicino a stufa, se c'hai quel stufa a pellet, cose così, all'aria aperta in modo che ci sia ventilazione, all'aria, non dico aperta, all'interno di casa vicino a una finestra, in modo che l'aria faccia evaporare, non insistere, anche il fondo va bene, ma stando molto attento che ci sono delle parti dove ci sono i trimerini, di lì ci mettono della cera sopra, e se per caso scaldi, magari crei dei problemini, e allora si può fare quel discorso lì, però tu c'hai delle batterie a tampone che servono per tenere le memorie dell'apparato, per cui c'è un'alimentazione che è una minima alimentazione di 3 volte con le batterie tipo degli orologi che tengono le memorie, per cui bisogna stare molto ma molto attenti, non è detto che non hai fatto danno anche se c'è l'alimentazione staccata. Adesso purtroppo tu non hai palazzi alti per dire che il fulmine scarica sempre nel punto più in alto, io facendo le corna spero che a me non mi becchi mai il fulmine e neanche vicino a me, perché anche se ti becca a 100 metri spacca tutto, il campo elettrostatico entra da tutte le parti, fa danni, quelle radio sono molto sensibili, queste radio ci sono delle parti molto delicate, per cui anche se il fulmine non ti scarica vicino ti può danneggiare altre cose. Cosa ti volevo dire? Questa radio che utilizzi adesso, che radio è? Sì, no, la toponata del senno non ci vuole per forza, perché valuti meglio le modulazioni, ascolti meglio, meno fastidioso, meno stancante, in assoluto. Io tutte le radio, tutte, dai ricevitori, da 7000 a quello grosso, più grande ancora, ogni radio ci avrò fatto parlare tra 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono 6 altoparlanti, perché tranne la 48 e l'altra base non hanno l'altoparlante. Tutti questi, tutte le radio che ho io hanno tutto l'altoparlante, tutte le HF, le VHF, i ricevitori, eccetera, sono tutti con l'altoparlante esterno. Noti una tantissima differenza, a me non fastidio, perché quando inizi con l'altoparlantino ti dà anche fastidio, è stancante, se ci stai qualche ora alla radio, soprattutto come stai tu, ti dà fastidio. Ok, l'MC60 in AM sicuramente va molto meglio del 90. Il 90 è fatto per altri scopi, c'ha due capsule, una radio e un microfono costa molto di più, ma io ti consiglio prendi l'MC60, è una radio super collaudato, un microfono super collaudato, lo trovi, non andare oltre kW, come hai detto tu, io l'ho trovato per un amico 80 euro spedito. Le sta funzionando perfettamente. Io ne ho due di MC60, uno l'ho trovato quasi a regalo, quello che era di Fabrizio, che gli era entrato il fulmine dentro, che era esploso, mancano i due tasti dell'up down, per il resto funziona perfettamente, devo farli fare, me ne sta facendo un amico con la stampante 3D, un radioamatore, e anche se non me ne faccio proprio niente di quei tastini, però il microfono non è nuovo, fiammante, proprio perfetto, gli aveva rifatto il circuito Fabrizio, per cui va più che bene. Poi ho un MC50, un MC85 nelle radio e un Ladonis 908, ogni radio c'ha il suo microfono. Sì, l'avrei fatta fare anche a me, no? Sono cose e soddisfazioni, quelli di dove sono, di Marsala, me li hanno mandati anche a me, ne ho 3 di quelle QSL che mandano loro, prima di essere radioamatore me l'avevo fatto fare anche io. Poi QSL ne sto ricevendo centinaia adesso, tutti i momenti, perché sto facendo, come ti avevo detto, tutti i diplomi, quelli che riesco a fare, mi sto anche comportando bene, ho delle in classifica, in certi sono arrivato anche qua, terzo anzi, l'ultimo che ho fatto, terzo a livello mondiale, vabbè, non sono tutti che li fanno i diplomi, naturalmente qualcuno non ne frega niente, poi ne ho altri su 2000, sono 20esimo, 26esimo, sono soddisfatto anche lì, ormai mi conoscono appena dico nome attivo, un pezzo subito Roberto da Sassari, subito immediatamente, poi conosci le stesse persone, gli attivatori molte volte sono sempre gli stessi perché fanno diversi diplomi ed è divertente anche quello lì. No, l'MC60 tienitelo, è un investimento, non è semplice trovarlo, perché chi ce l'ha se lo tiene, a meno che non sia un radioamatore vecchio, magari ha cambiato radio, vuole cambiare la Kenwood, prende una IAESO, una ICO, magari non se ne fa più niente, però è sempre un investimento, un giorno che lo vuoi vendere non meno di 80 euro lo vendi, è sempre interessante. Ti volevo dire una cosa, vicino a me si è messo uno che era un CB di coso, di Ozieri, mi ha detto il nome però non me lo ricordo, il nome attivo di CB, e mi ha detto che di un paio di nomi di questi di Ozieri, ricordami chi c'è Ozieri, c'è quel Giovanni che è nominativo, c'è di fronte a me, siamo a 10 metri neanche, la strada ci divide, infatti se attacco io probabilmente lo incenerisco e lì demmo lui, guarda non lo so, sinceramente ci salutiamo perché abita da poco, questo è un camionista, stavamo parlando, c'è un camion grosso, Scania, di quelli enormi, stavamo parlando, abbiamo detto, è venuta la discussione, così ho fatto, ma di chi sono tutte quelle antenne che ci sono? Ho fatto le mie, non riuscivo a capire, e ci siamo stati un'oretta parlando, raccontando, e gli ho detto, ma anche tu sei, sì, io sono un civino da, non so più di 20 anni, 25 anni, però adesso mi sono trasferito a Sassari da neanche un anno, ci sarà 6-7 mesi, e mi ho messo adesso una tubo 2001 nella ringhiera, me l'ha fatta vedere, c'ha un baracchino, non vorrei dire, una fesseria, un Superstar 3009, ho capito qualcosa del genere, e mentre su c'aveva una stazione base con la Mantova Turbo a Ozieri, ha tenuto per un pochettino e poi l'ha tolta, poi dice voglio divertirmi, ve lo voglio accendere, l'altro giorno l'ha accesa, però non so quanto possa rendere perché è messa sulla ringhiera, c'ha la magnetica di cose, vediamo un pochettino, però mi ha fatto altri nomi di questi CB di Ozieri, non sono quelli che mi hai detto tu, no, non credo che sia neanche entrato, se l'aveva messo l'altro giorno al antenna. Dice, ho fatto una prova e boh, non so, me l'ha detto il nome suo, ma neanche me lo ricordo. Ti ripeto, l'ho conosciuto in strada, stavamo parlando, ci siamo fermati perché ha parcheggiato il camion, la motrice di fronte a me, e ho detto, cerca di mettere, perché è anche pericoloso, non so che tenetano in casa, sono altri 5 metri con le motrici, tenetano dentro casa, adesso ci sono gli zingari, stanno circolando, hanno già rubato qua, sono entrati dalla finestra, da quella fianca a me, sono riusciti a salire, ho detto, figurati, con la motrice sotto la finestra, fai un salto e sei arrivato, non ti devi neanche sporcare, c'è la scaletta dietro, la motrice, ti metti sul tetto della motrice e sei dentro casa, cioè davanti a mezzo metro, per questo, la prossima volta ho detto, no, scusa, tanto vado via presto, adesso poi sei rimasto un parcheggio, ci siamo fatti una bella chiacchierata, e addirittura a Porto San Paolo, mai sentito nessuno in vita mia, che non so dove è Porto San Paolo, sono circa 10 km da Olbia, andando verso San Teodoro, Murta Maria, eccetera, eccetera, cavolo, c'è tutte le montagne, come hai fatto a entrare di lì? La prima persona che sento che è riuscito a parlare Olbia, è già difficile, noi in diretta in VHF non ci riesci, a meno che non ti metti una direttiva, o via ponte, noi quando parliamo con Olbia dobbiamo utilizzare il ponte, Monteraso o altri ponti che ci sono di quelle direzioni lì, perché sennò è impossibile, perché c'è tutto l'imbara che davanti che ti copre, è rarissimo, questo di Villasol, se è un radioamatore, forse ci ho parlato anche io, c'è un radioamatore a Villasol, però diciamo in VHF puoi fare da tutte le parti, Stati Uniti l'ho fatto anche io qualche volta, è capitato poco fa, c'erano gli americani sul canale 6, arrivavano anche abbastanza forte S8, arrivavano come segnale, ho fatto un paio di chiamate, però non so se mi abbiano, perché non è detto, molte volte tu li senti e loro non ti sentono, perché dipende da come è sviluppata la propagazione, comunque non è rarissimo gli Stati Uniti, ma di Olbia, zona di Olbia, la prima persona che io sento che ha collegato dalla Sardegna, cioè dalla zona, diciamo, provincia di Sassari, a collegare Olbia a Porto San Paolo, ma sentito in Isola Rossa ci potrei credere, ma ritrovi un varco, riesci a passare, ma cacchio, c'è tutto l'imbara che lo chiude Olbia, è stranissimo, non è che non ha fatto qualche riflessione, comunque belle soddisfazioni, no, ho visto, ti sto seguendo ogni tanto su internet, vedo i tuoi rapporti che ti danno le QSL, complimenti, infatti ogni tanto metto mi piace, l'altro giorno stavo parlando con dei radioamatori e c'erano anche un paio di CB c'erano in mezzo, in una manifestazione, conoscevano tuo padre, infatti ho detto sì, cavolo, se lo conosciamo, e vabbè, diciamo l'ideale è avere anche le informazioni sulla QSL, però se ti mandano la cartolina è anche bella, la mia te l'avevo mandata io, mi sembra di sì, scusami un attimino, mi ero allontanato, mi ha chiamato mia figlia, e no, sono belle soddisfazioni, poi quando ci sono incontri c'è una confusione totale a tutto il mondo, ti chiamano, mi sto divertendo, perché c'hai la bellezza delle bande radiomatoriali che c'è tante opportunità, cioè parti dai 160 metri, anche se non l'ho messa l'antenna, per il momento non l'ho messa, non è che ci sia molta attività, però con quelle 80 metri riesco a accordare, l'altro giorno abbiamo fatto delle prove con un amico radiamatore, siamo andati su tutte le bande, l'ho collegato via ponte in VHF, poi dagli 80 metri a salire abbiamo fatto tutto, un amico di Ustini, ci siamo divertiti e subito immediatamente tutta l'Italia si è collegata, io con un pezzo di filo ho poi l'opportunità di utilizzare anche la verticale come ottavo per fare i rapporti, ma ci siamo divertiti, perché poi la bellezza è che poi quando sentono la Sardegna, la gente è innamorata della Sardegna, perché è un conte, cioè un country separato, per dire, se tu colleghi tutta l'Italia, lo Trivale è tutto fa parte di un unico country, mentre quando tu fai la Sicilia è come che fa una nazione diversa, la Sardegna è la stessa cosa, le isole Baleari sono dei country separati, e quando sentono la Sardegna è molto appetita come cosa, per dire, noi facciamo il Vaticano, che io non sono riuscito a farlo, l'ho sentito, però non sono riuscito a entrare, che c'era tutto il mondo, il Vaticano ce l'abbiamo di fronte, per dire, è facilissimo teoricamente a sentirlo, però la difficoltà è parlarci, San Marino, lo stesso, la rarità che ho fatto San Marino, e uno dice sì, sono 300 km dalla Sardegna, sì, però ci sono due radioamatori operativi su una cittadina piccola, ce ne sono in tutto iscritti 80, però operativi sono due, e trovare quell'operatore in quel momento lì non è semplice, di nuovo a te Claudio. Ciao Roberto. Ciao Luca, a ciao Sartendino che ha chiamato Luca, avanti Luca, lo salutiamo. Ciao Roberto, ciao Claudio. Non so se mi ascolta Claudio, avanti Claudio. Come più vetti, vabbè, dai, vabbè, com'è? Tanto Luca, una bomba, sì, cioè picchi a 9 più 40, allucinante, non so cosa hai fatto, però non lo diciamo, dai, non è mai arrivato così forte. Quando piove fa così, boh. L'umidità realtà dice, come quello dice, mettici lo spray per le stazionarie, non hai bisogno, vendono, scherzando naturalmente, uno spray, dice, lo metti sull'antenna e ti diminuisce le stazionarie. Comunque, complimenti sia per la modulazione che per il segnale, mi immagino di cosa stiamo parlando. Comunque, complimenti, bellissimo tutto, segnale ottima e modulazione perfetta. E Claudio Di Muro, su quanto ti arriva, Luca? La prova, allora Claudio da me 9 picchi negativi. Come picchi negativi? Prova Claudio. Allora, se lui mette portanti mute 9 spaccato, va a modulare negativo. Da me, non lo so, Non lo so, qua è tutto a posto, sta arrivando quasi 9+20, c'è un bel segnale, modulazione pulita, leggermente meno amplificata della tua, perché avete due microfoni diversi. Comunque tutti e due state andando alla grande, tu sei spettacolare, bellissima come piace a me la radio, non è fastidiosa perché vi so un sacco di radio aburuttosi, tranquilla, pulita come la tua voce. Luca, dammi a me anche un controllo, visto che ci sei. Tu sei 9.30, Roberto, solito segnale tuo. No, credo arriva benissimo, molto molto bello, ascolto, bello, proprio 9, la radio bella, così non l'avevo mai sentito, perfetto. Avanti, Cla, riprendi. Ciao Cla. Ciao. Ciao, vedi qua. Ciao, ok Cla. Avanti, Vitella. Ehi, solo per un saluto, ciao Claudio Di Muro, ciao Roberto, ciao a te Luca. Ero di passaggio, vi ho sentito, sono andato a salutarvi, dai. Buona serata a tutti e buon proseguimento di questo. Ciao. Sì, ciao, dai. Quando non come fatti vedere, collega che me, in moto viene male, dai. Ti ascolto molto forte, la modulazione è fortissima, Claudio. Ehi, sono andato col 430, io sai che non tocco niente, non è che devo stare lì a chiedere i controlli del mio radio, sono sempre quelle, io 40 anni modulo così, va bene, dai, abbraccio a tutti, buon divertimento e buon proseguo di questo show, cambio parte Luca, vai. Ok, la saluti in casa, va bene, se sono calato adesso, dai, perché ho levato lo spray, no, lo spray, la pomata, quella per le stazionarie, l'ho levata. Guarda un po' Claudio Di Muro, riprendi per saluti a Claudio, vai. Avanti Roberto, riprendi. Luca, tu sei calato di 10, dal quasi 9.40 a quasi 9.30, sempre il segnale spettacolare. E vado a chiedere a Muros, visto che sta utilizzando un apparato più performante, com'è il segnale con quella radio che sta utilizzando tu? Sì, sì, va bene, non c'è problema, ti ascolto benissimo anche a te. Cosa volevo dire di altro? Stavo parlando di collegamenti e cose, no, ho visto che ti stanno da fare complimenti, ti vedo ogni tanto quello che pubblichi, ed è veramente interessante la situazione quando vedo che fai dei collegamenti, la Namibia hai fatto pure, cacchio, e non l'ho mai sentita io, in 27 ho visto, fatta la Francia, quei paesi, come si chiamano, spagnoli, si fanno frequentemente, ma hai fatto dei collegamenti mai visti, in 27 neanche sapevo, cacchio, forse sei uno dei pochissimi in Europa che sei riuscito a collegare in questi periodi, non parliamo ai tempi antichi, probabilmente era più semplice, però arrivare a fare quei collegamenti non è da tutto. Complimenti di nuovo. Vai Claudio, a te. Io sento non ho poco e niente, dai, sto navigando su TikTok, facciamo le live, parliamo del più del meno, ma niente di, si fa qualche video così, dai. Giusto per fare due risate. E qua ogni tanto entro, non è che entro spesso. Comunque vi ascolto. Avanti Roberto. Sì, vabbè, anche io poco e niente qua, sto entrando, molte volte provo a accendere, non c'è nessuno, diversi giorni acceso, l'altro giorno ho acceso 5 minuti quando stavo chiudendo, se ci avesse qualcuno c'era Claudio, Gianni, non mi ricordo, Natalino c'era, qualche volta li sento più degli altri, se no molte volte non vi viene nessuno, già non c'è nessuno nelle VHF, io ieri ho fatto questo collegamento, anzi avanti ieri, con questo amico di Uschi, poi da lì ci siamo spostati in altre bande, su tramite ponte, ma non c'è più nessuno, stranamente forse stanno facendo altri tipi di attività oppure trasmettono in orari diversi da quello ci sono, io mi sto divertendo sulle bande HF, adesso ho montato una direttiva montata alla Levo Centrale sulla Liguria, che c'è un ponte ripetitore, ci sono degli amici che loro utilizzano il ponte di Coso, di Fiume Santo, e più hanno un ponte loro a Imperia, ci sono due ponti ripetitori, uno discreto e l'altro efficiente, e più c'è quello delle Alpi Marittime che copre quasi tutta l'Italia, sino a quasi in acqua. Napoli, c'è una copertura a 2400 metri di altezza, ma dà paura quel ponte. E ho orientato un'antenna, adesso devo fare, orientata però più centrata, diciamo, messa più o meno a occhio, con la bussola, le coordinate metto e la devo centrare su. Un'antenna mi ha regalato Walter tempo fa, ce l'avrò a marzo mi pare, una 920 per le VHF, e poi ho altre due antenne che non vedo l'ora di piazzarle, una vabbè, da solo è impossibile, quindi mi dovrò fare aiutare a qualche esperto, e poi c'ho l'altra che mi ha dato uno di Abbasanta, una bella antenna particolare che non, quasi nessuno utilizza perché non la conoscono, però lui ha fatto dei collegamenti da paura, ha collegato quasi tutto il mondo con quell'antenna, senza amplificatore né niente, perché chi conta l'antenna? Inutile, c'hai 1000 watt e poi non rende l'antenna. Con quell'antenna lì, quella collegata, ha preso la patente insieme a me, c'ha un nominativo uguale al mio, cambia solo una lettera, ma ha collegato tutto il mondo, cioè su 340 ne ha fatto 280 di country in 6 mesi. Vabbè. Come si chiama? Natalino, come stanno andando gli studi? Non lo so, boh, poi le ho prese di vista. Natalino sta andando, mi proprio domenica ero da questi amici che stavano facendo questo diploma su Haiti lì, e tra l'altro sono gli insegnanti di Natalino, e dice stanno andando, anche se qualcuno si è perso in cammino di quelli che stavano andando all'inizio. Mi dispiace, l'ho detto anche a te Luca, che è tanto vicino a casa tua tra l'altro, di lì al, poi c'è il coso che hanno la sede loro, quella cosa dei radioamatori, la sezione di Porto Torres. Anche a Claudio Di Muro, se gliel'ho detto, che è interessante, vi prendete una patente, visto che siete appassionati, ti danno una mano e poi si vedrà. Dai. Se non parlate un attimo, c'è qualcuno che sta dando colpi di portante, non ti disturba, però si sente qualcuno che si sta divertendo. Sì, molti punti sono in disuso, ma anche punti importanti vicini. Adesso hanno potenziato Monterasu, a me mi arriva fortissimo, però è sordo. E con quell'amico, quello che hai nominato tu, di Uschiri, un amatore di vecchia data, molto, molto esperto, una grande persona tra l'altro, e ci siamo sentiti l'altro giorno tramite il ponte Monterasu, però io l'ascoltavo bene, lui dice mi sentiva molto, molto disturbato, è un po' sordo quel ponte, tra l'altro credo che lo gestisca lui, Walter, Fabrizio, ci sono saliti, forse anche Claudio l'altro giorno, e ci siamo parlati tramite il ponte di Itili, che c'è una copertura importante, dai. Anche se è il numero uno secondo me come copertura è il ponte di Fiume Santo, quello c'è una cosa, non ce n'è per nessuno, perché quello sul mare spara, cioè riflette sul mare, ti colleghi tutta l'Italia con quello lì, arrivano da tutte le parti, parli con quello, naturalmente in condizioni ideali, certo se c'è brutto tempo. Un'altra cosa prima di che mi dimentichi, ti ho messo da parte una sedia girevole, niente di importante, Claudio, quando capito dalle tue parti me la carico, tanto è piccolina, leggera, me la carico e te la porto su. Facciamo riprendere a Luca, avanti Luca. C'è un altro avete, sì. No, io sto aspettando che mi chiamino dentro a mangiare, tra l'altro mia figlia ha fatto oggi San Michele e ci hanno regalato la torta, il fidanzato, ho detto io che ci mangiamo anche la torta. Ok, e se festeggiano l'anniversario da quanto sono insieme, non so più ragazzo, non è manco, comunque, buon per lì. E Claudio riprendi tu. Vabbè. No, poi vabbè, io vi dico una cosa che sto baracchino, sì, lo tengo, non è che mi servono soldi, non mi interessa, però me ne fa da proprio. Ma è sceso qui, prima c'era più gente, si potevano fare due chiacchiere, poi adesso non c'è più nessuno. Poi succede anche che magari uno si vuole fare due chiacchiere, c'è sempre uno che rompe le balle, come al solito. Vabbè, adesso no, però è successo più di una volta. Quello già è vero, dai, poi non per dire magari, diciamo c'era sempre molte volte Claudio, trascinava, qualche volta c'ero io, c'era un po', magari un po' di cose, poi molte volte trovi degli argomenti che qualcuno non interessano, che magari qualcuno ascolta, dice ma non me ne frega niente di quello che racconta della malattia, che racconta del cane, che racconta di cosa ha mangiato. In certi momenti c'erano delle belle discussioni, entravano anche degli animatori, entrava Marco qualche volta, entrava Walter, Gianfranco, e diciamo c'erano anche argomenti tecnici che qualcuno poteva anche interessare, però molte volte ho notato che ci sono cose, magari non per criticare a nessuno, di argomenti che non ti danno frutti nulla e uno dice ma lasciamo perdere, faccio altro, ti metti il computer e ti metti a cercare il computer come ho fatto anch'io tante volte. Ok, e una domanda tecnica a te Luca, che sei esperto. Quando ti arriva Mondetta su internet, che mi sta continuando ad arrivare sempre, sono due o tre di queste pubblicità di cose Tulero, cose così, Vanessa, non so come, sono delle cose continue, delle pubblicità che me ne arrivano 20 al giorno, io ho provato a bloccarli come spam, c'è un modo proprio per non riceverli? Vado con il telefono. No, nella posta dell'officina. Robè, mi stai prendendo così alla sconfidata. Pubblicità nella email, giusto? E nella email continuano ad arrivare, sono sempre gli stessi, a parte quelli che mi interessano, ogni tanto c'è qualche mondezzina, però sono sempre tre o quattro di questi, uno si chiama Tulero, l'altro si chiama Brian Stevenson e l'altra Vanessa non so che cosa, sono delle pubblicità, nemmeno le guardo, non sono di roba sporca, perché molte volte potrebbero arrivarti delle cose pornografiche, cose così, però sono sempre, mi riempiono la casella di questa mondezza e li metto come spam tutti quanti e di nuovo ce l'ho, le domande ce le ho ancora. Stazioni che si possono bloccare, dovessi frugare, ma aspetta, ti arrivano proprio come messaggio, cioè sai, come per esempio io ti mando un messaggio e ti arriva il mio messaggio, no? Ti arrivano così, o ce l'hai proprio, non ho capito come ce l'hai queste pubblicità. No, pubblicitaria che non mi interessano, cioè è come che tu mi mandi un messaggio e mi arrivano sempre di tre o quattro persone, chiamiamole persone, che saranno delle società, non lo so se cacchio è, uno vende roba, articoli sportivi, l'altra non so cos'è, perché non li ho neanche aperti, non mi interessano, però sono roba pubblicitaria e continuano ad arrivarmi tutti i giorni questi qua, li ho messi come spam, poi ci sono vabbè i messaggi quelli di hackeraggio, di cose strane, polizia, abbiamo il suo numero di account, è stato frodato, ci chiami, ma sono tutte balle, già lo so, quello bisogna stare attenti, ma queste sono proprio, deve essere delle ditte, tipo come ti arrivano le pubblicità di Amazon, cose così, e sono continuamente, arrivano ogni giorno, io apro la posta, ogni giorno almeno ci così arriva. Dunque arrivano anche a me messaggi, ti faccio un esempio, no? Che devo ricevere un pacco, ma me la giornata me ne arrivano, vabbè. Vabbè, io li cancello, manco li leggo, li cancello e elimino direttamente, non mi creano problemi. Comunque potresti frugare un po', se li puoi bloccare, magari li metti nel blocco, oppure li segnali come spam. Li ho segnalati come spam, allora io, quando ti arrivano le chiamate telefoniche, tutti questi gestori, telecom, eccetera, eccetera, io li metto blocco, così il telefono non mi disturbano più, ne avrò bloccato 50. Io vorrei bloccare questi messaggi che arrivano. Li metto come spam, però continuano ad arrivare. Scusami Claudio, se sto monopolizzando. Avanti Luca. Comunque ripeto, anche a me ne arrivano tanti di questi messaggi. Codice bomba per ritirare il pacco, mamma con ne apro il cancello. Avanti Claudio, ci sei. Ma senti Luca questo disturbo? Sì. E allora stavo dicendo a Luca, e sento ogni tanto questa portantina, ma non ti fa niente perché lo passi alla grande, però dico, bel divertimento, meno male stai arrivando forte, perché se fossi intorno alle 9 e magari ti dava fastidio, però lo superi abbondantemente, non c'è problema, e ormai il computer sta diventando uno schifo così, ho fatto quel blocco per le telefonate, che c'è un'applicazione che ti metti per legge, ti puoi bloccare, e invece continua ad arrivarmi, perché c'è un'applicazione, entri, ti registri, non so che cosa, tramite il ministero, le poste telecomunicazioni, eppure nonostante tutto mi arrivano telefonate, e io ho un numero internazionale, non è un numero italiano, cioè è fatto da una persona straniera, eppure nonostante tutto mi arriva, e l'ho fatto anche per l'officina, niente, continua ad arrivare, quante volte ti metti a correre, senti il telefono, arrivi di lì e ti senti queste telefonate di Vodafone, di Telecom, eccetera eccetera, tra l'altro non c'è neanche più l'operatore, sono pure registrate ed è ancora peggio, non li puoi neanche rispondere male. Di nuovo a te Luca. No, non lo conosco, no, io con i programmi sono un po' negato, sono sincero, anzi ti posso dire un'altra cosa, che di questi programmi poco mi fido. Sì, infatti bisogna stare molto molto attenti, che poi te ne prendono dei dati personali, lasciamo perdere, infatti bisogna stare molto molto attenti. sensibile, un tre telefonino di quelli, io sono una persona che fa un lavoro un po' delicato, e c'è il telefonino di quelli vecchi, non questi smart cellulari smart, questi nuovi di ultima generazione Android, c'è quelli vecchi Nokia, ricordi Luca, quelli proprio antichi degli anni 90, i primi anni 90, lui c'ha il telefonino suo, è quello, e dice sei più sicuro di tutto. Comunque questi, aspetta, ti faccio un esempio, l'antivirus che mettono nei telefonini non serve a niente, se lo mettono peggiore al telefono. Comunque i telefonini Samsung, gli ultimi usciti, ce l'hanno l'antivirus dentro. Poi vabbè, a me lo stesso, guarda, mi appariva dentro, cioè mi usciva questa, aprivo internet, ah c'è una bugia, no, io internet lo apro, a me avevo queste notifiche, tipo adesso, vedi, c'ho questo update, ma a tempo nuova allerta, vabbè, per quanto riguarda il meteo, no? Però non so come cavolo se bloccarlo, vedi? Qua c'è la campanellina, impostazioni, notifiche, che mi appare sempre. Non so come bloccarlo. E poi mi arriva, vabbè, altre cose, pubblicità, anche cosa adesso, risultati della Serie A. No, sta diventando, non esiste più la sicurezza, la privacy, ma la controprova, non so se lo sapete, ogni tanto faccio la pulizia, la scansione del telefono e fa la pulizia, e ho fatto una volta la pulizia col telefono senza la linea internet, non funziona, per cui tutta la roba che io pensavo che te la cancellasse il telefono, non c'entra niente, è dati tui che tu stai cancellando fotografie, immagini, qualunque cosa hai memorizzato nel telefono, dei file, passa tra mette un server collegato via internet, per cui se tu hai fatto, facciamo una cosa sporca, diciamo, una cosa che non devi fare, una cosa delicata che non puoi far vedere, tu non ce l'hai più quell'immagine o quel file che ti hai salvato, passa tramite un server e ci sono dei mega computer e chissà chi li mette in mano. Adesso i cinesi stanno comandando da tutte le parti, penetrano da tutte le parti, soprattutto con questi telefonini, sono fatti apposta per rubarti le informazioni, ed è una cosa questa molto molto pericoloso. Ho visto un documentario alle Iene, vi mettete le mani in testa se riuscite a capire cosa riescono a fare dalle telecamere dei telefonini, ti aprono anche col telefonino spento, te lo accendono, è una cosa allucinante. È loro che fanno queste cose, roba, è un casino. E poi sai cosa, il telefono, adesso per esempio il mio un 128 giga, ma quasi pieno, se un giorno mi metto, mi salvo quello che devo salvare, cose più importanti, ecco, il resto ci butto tutto perché sono quasi pieno, insomma sono costretto a comprarmi il 256 sempre della Samsung, adesso vediamo, 256 giga, ma poi anche quello lì si riempie col tempo, forse magari un 512 sarà un po' difficile riempirlo così facilmente. Già lo so, ma adesso col discorso Luca dell'alta definizione 4K, se c'è delle immagini cariche molto cose, ti tirano pure la memoria tra le mani. Anche io ce l'ho 128 da diversi anni, però già ne ho un'abbondanza di memoria per quello che lo utilizzo io, però anche adesso sto iniziando a riempire perché ho migliaia di fotografie, più tutte le QSL che mi arrivano, sono tutte ad alta definizione quelle, e ce ne saranno più di 400 solo di quelle QSL lì, figurati, e ogni giorno ne arrivano 6, 7, 8, 10, dipende da cosa fai, di collegamenti. Adesso io me le devo fare, infatti non ci sono molto, proprio stasera mia figlia mi ha comprato una pennina, non so da quanti gigabyte, e mi trasferisco tutto lì, così tutti i collegamenti che ho fatto, i QSO, oltre che mettermi nei computer, me li ho trasferiti su pennina, perché se ti si sfascia il computer è un problema grosso, a perdere tutti i collegamenti, migliaia di collegamenti che hai fatto e vanno in malora. Soprattutto mi dispiace per le immagini che ho, delle fotografie sul cellulare importanti, di posti che ho visto, persone care che ho fotografato, eccetera eccetera, video di mio padre per dire che non c'è più, eccetera eccetera, e sono cose sentimentali che te le tieni da parte, ed è un peccato perdere. Infatti adesso me le devo trasferire su una pennina di queste che hanno un po' di memoria, almeno sono un pochettino più tranquillo, svuoto il telefonino e basta. Di nuovo a te Claudio il mic. Scusate, sono al telefono, Roberto e Claudio, riprendi Roberto. Ok, non c'è problema, sì sì. Ma tu hai tutta la pubblicità di YouTube del computer, non del telefonino? Sì sì, quando capita, tanto prossimamente cercherò di portarti quella roba là e mi farai vedere, mi fai vedere anche le radio nuove che hai preso, e sono curioso di vederle, toccarle con la mano. No, le ho viste già, però vederle dal vivo è diverso, dai. Non c'è problema, poi magari qualche informazione di cose che so io, magari te le passo a te, che magari ti possono essere utili per altri tipi di interventi. Cosa ti volevo dire di altro? Io aspetto ancora qualche minutino che mi chiamino e dovrò tra poco interrompere. Lasciamo un secondino di bianco, vediamo se nel frattempo qualcuno vuole entrare. Avanti su 10. Allora, non riuscivo a entrare, buonasera. Ah, ciao Tino, tu sei? Sì, buonasera. Scusami Tino, facciamo passaggi troppo lunghi e mi dispiace tantissimo. Infatti l'abitudine, molte volte quando c'è belle conversazioni, noi normalmente in altre parti passaggi pure troppo brevi perché per non impegnare, qua invece ci siamo un pochettino attaccati al tasto. Di nuovo a te Tino, ben sentito dopo un po' di tempo, e poi rilanceremo a corsa Claudio Di Muro, se c'è anche Luca, si è interrotto con la telefonata. Vai Tino. No, sono appena entrato, Roberto, ho acceso, ti ho sentito, ho fatto la battuta. Chi c'è? Claudio Di Muro. Claudio, mi ascolti? Ciao, buonasera. Eravamo un po' in stand-by e quindi adesso abbiamo ripreso. Va bene, non so di cosa stavate parlando, Roberto, ti rilancio il mic, dai, sono in ascolto. Abbiamo parlato un po' di tutti, di queste pubblicità che ti arrivano via mail, questi messaggi di rompimento di scatole, della privacy che ormai non esiste più, perché gli stavo dicendo, ho fatto una prova col cellulare a cancellare quando vai, che fai la scansione per svuotare tutto quanto, funziona solo con la linea internet, se lo fai con ti distrugge la linea internet e non funziona, per cui tutti i dati che io pensavo rimanessero all'interno del cestino del telefonino, come succede nel computer, vanno a finire in un server, chissà che fine faranno questi, magari se tu hai fatto qualcosa che non devi fare, qualcosa diciamo di poco pulito, o ti hai guardato qualcosa di poco pulito, va a finire su questo, o c'è qualche immagine, qualche documento che non vuoi fare, va a finire in questo chissà dove, in questo canale che vedrà tutte le cose del tuo telefonino. Bella storia, sì, io ho fatto di polizia solo di foto e di video, ne avevo avuto 800 foto, stava circa quasi bloccando il telefono tra video e foto, quindi ho preso, ho fatturato tutto, l'ho rimesso quasi lo stato naturale, poverino. Già lo so, però adesso infatti quello che stavo dicendo io non lo so fare, ma lo farà mia figlia, ho migliaia, non dico migliaia, più di 1500 foto, più video, non so quanti ne ho, e più ci sono le QSL che mi sono arrivate in questi mesi qua, che saranno 450 solo di quelle, e in pochi mesi, e sono tutte le immagini che occupano tanta memoria, grazie a Dio il telefonino mio è abbastanza potente e per il momento non si è mai bloccato e mai rallentato, però quando tu cancelli delle foto, dei doppioni, magari hai fatto dei documenti, perché col tipo di lavoro mio utilizzo anche delle informazioni di clienti, di cose del genere, quando passi i preventivi, le cose, le spese, eccetera eccetera, li passi ad altre persone e poi quando non ci servono più cancelli tutto, io convinto che cancellando finisse tutto lì domani, e invece non è proprio così, assolutamente il contrario, questi vanno a finire chissà dove. Ok, vediamo se Luca ha ripreso, io ancora un paio di minuti poi devo interrompere. Vai Luca. Luca ancora al telefono, vai Claudio Di Muros. Ma guarda, io sono convinto di una cosa, dal momento che tu ti compri un telefonino, anche se non ci metti niente, si è segnalato, insomma dovessi, sono tutte cose di noi, quindi è inutile stare lì a girarci intorno. Ma diciamo, chi se ne frega, ce lo dobbiamo aggiungere. E dai, riprendo per concludere, che mi hanno chiamato a mangiare. Vi saluto a entrambi, ciao Tino, ciao Claudio, ciao anche Luca, se ci sta ascoltando, sempre che non c'è ancora il telefono, e tutti gli eventuali amici che sicuramente si sta ascoltando qualcuno, perché ogni tanto sento qualche fischio, qualche bip e qualche colpo di portante. Dai, ci risentiremo presto, penso quanto prima, dai, che mi fa piacere per entrambi. Ciao Tino di nuovo, ciao Claudio, ciao ciao cuore Tino. Sì, ciao ciao a tutti, dai, mi è sembrato che è entrato Luca, avanti Luca. Dai, ciao Tino, ciao Roberto, ciao Claudio, alla prossima, dai, tanto che ho tra un po' porto il cane, poi c'ho stacco, dai, ciao Tino, alla prossima, dai, ciao, buonanotte a tutti. Andare, va bene, ciao Claudio, ciao Roberto, ciao Luca, ciao a tutti, dai, così da parte mia anche qua. Va bene, ciao ciao. C'è 9 parte Shabbaton di là. Ah, è vero, me l'avevo detto, però non mi ricordavo. Vabbè, se... non lo so, vediamo il tempo com'è, perché se vuoi venire Antonio al limite non lo so. Sì, vabbè, tu mettiti d'accordo con Antonio, in ogni caso io scendo, perché lo scendevo anche perché Marco mi lasciava le chiavi della di quella Citroen che c'è sotto la tettoia, ci sono i cani che dobbiamo metterle in moto, vedere, capito? E forse me la prendo io con la macchina. Niente, vabbè, tu vai dove devi andare, già ci siamo io e te, non c'è problema. Così ti ho quella roba, capito? Ci facciamo un aperitivo e poi ce ne andiamo. No, se si può lavorare lì, mi taglio quegli alberi là. Se c'è Antonio così si porta via e poi devi scendere un giorno prima a trovare la roba al frigo. Vabbè, prendiamo un bel coroncia, tanto già lo sappiamo. Dipende dal tempo, ma in ogni caso se ne fotte. Anche se il tempo è brutto non si fa quel lavoro che devi fare, qualche altra cosa lo facciamo, di procederci al caldo, capite? Vediamo, parliamo. No, volevo sbrigarmi con gli alberi, tempo permettendo, così almeno me lo tolgo e trovo le scatole. È bella uscita. Vediamo, anche perché non so come fosse la situazione. Eravamo stamattina assieme, che si è bloccato il cancello e quindi è sceso Fabrizio. Io ero in giro, li ho raggiunti, ci abbiamo preso un caffè e me l'ha detto, parte sabato, perché dopo domani lui di là, mi pare che l'aveva già detto. Però mi ha detto, se dovete scendere, scendete, non c'è problema, già lo sappiamo quello che deve fare e poi fate quello che vi piace. Quanto prova a mettere in moto con la macchina, se parte, capite? La Citroen, Saxo, cos'è? Sara, cos'è? Station wagon che c'è sotto la tettoia. Eia, già l'ho vista. Fatti lasciare, diglielo magari domani, fatti lasciare il booster, perché lì viene male anche. Fatti lasciare il booster per metterle in moto. Sì, bisogna il booster. Ah, per spostarla, eh. Domani se mi ricordo glielo dico. Se me lo dico il capo, il booster, vabbè, ci abbiamo il fuoristrada che c'ho io, già va a 180 ampere, quindi non c'è problema, se riusciamo a spostarla, già ci riusciamo a portare il culo fuori, ci mette molto con il capo, se il booster non ce la fa. Sì, mangiare, perché è pronto da mangiare, caspita, non sapevo ci mangiava anche stasera, cazzo, pensavo di fare dieta. Vai, allora, anche io mi devo organizzare. Sentiamo dopo magari. Ehi, ascolta, non mi hai detto niente, la radio va bene, a posto la mia? Sì, sì, te l'avevo detto. Infatti, non ti ho chiesto niente, avevo dei picchi, sono a posto, non c'è lo sto cazzo di MC60, sai, i soliti difetti, l'ho tutto aperto, ripulito, ripiazzato, sembra che stia andando bene, dai. Va bene, lascio acceso T, al limite ci sentiamo dopo, ok? Vabbè, vado a mangiare un boccone, ma giusto così, un giro di tavola, non mi vuole cenare. Sono con un compagno, sarà nel puntino a pranzo, insomma. E io già di messi, boh, non mi ricordo che ho mangiato a pranzo. Ah no, due gnocchetti ci abbiamo fatto, avevamo solo riconando. Due gnocchetti asciugo ho mangiato, ma due cosettine, e boh. E poi mi sono sdraiato e stavo diluviando. Ho fatto una bella dormita. Va bene, dai, ci aggiorniamo dopo. Ciao.